9 in punto, la versione di Oscar. Buona giornata, ritorno a augurarvi un buon giovedì 16 luglio, Oscar Giannino. La versione di Oscar si occupa oggi della faccia degli italiani. E ce ne occupiamo proprio dal punto di vista iconografico, cioè che cosa ci può dire, quali tipi di interrogazioni ci può fare il contemplare migliaia di facce degli italiani di oggi. Che cosa ci racconta in termini di antropologia, di cultura, di desideri, di stili di consumo, anche se volete, ma soprattutto di interiorità. Ecco, abbiamo deciso di fare, come vedete, una cosa un po' strana, perché parlare per radio di qualche cosa che ha a che vedere con immagini e iconografia non viene molto facile. E ciò malgrado, io vi chiedo di chiamare il numero 800 24 00 24 e abbiamo qui con noi in studio un maestro, uno che con la fotografia, con l'obiettivo, ha restituito l'arte e il costume attraverso l'arte ai suoi doveri primari, cioè quelli di contestare, capovolgere luoghi comuni, sollecitare interrogativi. E l'ho fatto sempre, l'ho fatto nei decenni, sia quando ho fatto grandi campagne di fotografiche per grandi aziende, diventando l'immagine di quelle grandi aziende, penso a Benetton, sia quando invece, come in questa occasione, mette a frutto talenti dal basso, giovani volontà di fotografi che vogliono mettere insieme stili di comunicazione diversi, e li porta nelle piazze d'Italia a fotografarvi. Sto parlando di Oliviero Toscani, che è con noi. Buongiorno Toscani. Buongiorno a tutti. E insieme a Oliviero Toscani, che sta animando questo progetto che si chiama Razza Umana ed è fa parte del progetto Nuovo Paesaggio Italiano, realizzato da questa bottega dell'arte della comunicazione che sta alla Sterpaia nel parco di San Rossore. Abbiamo con noi Francesco Merlo, editorialista di Repubblica e autore del bellissimo libro Fac Italia di Bompiani, compratelo e leggetelo. Buongiorno Merlo. Buongiorno. Io vorrei cominciare proprio da lei, Merlo, più prima ancora che da Toscani. In realtà queste facce raccolte sui comuni d'Italia, nelle piazze dei comuni d'Italia, di questi italiani, a lei, per quello che le ha viste, visto che recentemente ha partecipato due sere fa a un dibattito insieme anche a Oliviero Toscani, ma queste facce degli italiani, per come lei le racconta da anni sul grande quotidiano italiano, che cosa ci dicono? Che siamo antropologicamente abbastanza fusi finalmente dopo un'acquisizione recente dello Stato unitario, o siamo ancora così divisi come vorrebbero alcuni nel raccontare politicamente, sociologicamente gli italiani? Lei che dice? Ma io penso che siamo divisi, però penso che le facce degli italiani sono diventate un problema per gli italiani, cioè gli italiani vogliono cambiare la faccia. Infatti mi piacerebbe poi sapere da Oliviero Toscani quanto vede di desiderio di cambiare faccia c'è negli italiani, perché cambiare la faccia è una novità per noi, no? Perché una volta si diceva che cambiare i connotati era una delle peggiori cose che potessero succedere a una persona, perché era la maniera di rendere se stessi estranei a se stessi, no? E addirittura c'è una, come tutti sanno, una minaccia mafiosa che è ti taglio la faccia, no? Che era poi la deformazione permanente che la mafia ha preso, una delle tante cose che la mafia ha preso dalla Chiesa, cioè dall'Inquisizione, che modificava la faccia del blasfemo, no? Deformava la faccia. E quindi voglio dire, adesso la fisionomica la possiamo anche rilanciare, è una scienza complicata, alcuni dicono che sia una scienza razzista, presuntuosa, non lo so, secondo me ha delle cose molto suggestive la fisionomica. Certamente la faccia serve in qualche maniera a decifrare la personalità, la faccia parla, la faccia anche al congiuntivo, ma mi faccia il piacere, no? Allora voglio dire, questa idea che la faccia italiana sta cambiando e che gli italiani la vogliono cambiare e quindi ricorrono al chirurgo plastico, che poi è un'idea sostanzialmente berlusconiana, mi viene da dire, no? È un'idea che forse, se la vogliamo collegare a quello che noi facciamo, cioè allo studio della politica, all'osservazione della politica, è un'evoluzione del vecchio trasformismo italiano, cioè una che è appunto l'evoluzione berlusconiana del trasformismo, per cui cambiarsi la faccia, cambiarsi i connotati, modificarsi, andare dal chirurgo, farsi ricrescere i capelli, è più importante delle statistiche sul PIL o sulla criminalità. Cioè, l'Italia si guarda allo specchio, così come fa Berlusconi, e cambia la faccia. Si può fotografare una faccia mentre cambia? Allora, Toscani, Merlo già ci porta immediatamente in alcuni punti di fondo che attraverso questa raccolta di migliaia di volti italiani con i fotografi della sua squadra si potrebbe mettere al centro la riflessione. Gli italiani vogliono cambiare faccia, vogliono esprimere in altre parole quel cambiamento del costume che la televisione commerciale da 20-25 anni ha rimbalzato attraverso il modello berlusconiano, poi anche nella politica, ma negli stili di consumo. Ma io non lo so, io poi le ho guardate molto a lungo, un po' di ritratti scattati dai suoi. Quello che mi ha colpito, io vengo da Torino, vengo da una tradizione che vedeva il positivismo, diciamo così, la scuola di Lombroso come molto forte, un riferimento molto forte. Ci ho visto invece qualcosa di diverso, che mi ha anche stupito e colpito, una bellezza di tratti anche molte volte antichi, nelle molte facce, soprattutto di quelle di una certa età, ma anche in giovani. Ci ho trovato alcuni, per esempio, dei rimandi alla pittura del 300. Lei che impressione ha, visto che poi questo progetto lo anima? Ma poi perché lo ha animato davvero, Toscani, questo progetto? Beh, è una vecchia mia idea, l'ho sempre fotografato luoghi locali, documentando in modo seriale la gente che partecipavano o che vivevano o che frequentavano questi posti. Quindi già negli anni 70 mi ricordo i primi locali gay negli Stati Uniti, a New York, i locali dell'avanguardia culturale. Mi ricordo aver fotografato Madonna in un bar a Parigi, era una illustre sconosciuta con tutto il suo entourage già di fanatici nell'82, insomma. Alla fine si scoprono anche queste cose che poi diventano, questi personaggi che poi diventano poi famosi perché portano avanti la loro arte. Beh, non si può, quello che ha detto Merlo è molto giusto, e soprattutto è molto giusto anche se applicato dalle facce della Val d'Aosta a quelle di Salemi, Sicilia. Abbiamo una grande varietà di bellezze individuali, cioè ogni persona in fondo è un'opera d'arte, unica e irripetibile. Prima di tutto voglio fare questa considerazione, che guardando da vicino qualsiasi faccia è veramente incredibile. Ci sono delle persone che così subito liquideremmo dicendo ah no, è brutto, e invece no, ha tutto un suo fascino unico, un'opera, una vera opera d'arte. Però questo voler cambiare la faccia è vero, perché è chiaro, non siamo un paese particolarmente allegro, non siamo un paese allegro, contento, e quindi si cerca di andare a vedere e acquisire quelle cose che si dice, si pensa, si spera diano sicurezza. E devo dire che la grande rovina di questo paese è la televisione. C'è questo rincorrere i simboli, le facce, il modo di fare, di pettinarsi, di mettersi il gel, di spettinarsi, di mettere i piercing, i tatuaggi, perché lo si vede in televisione. Si parla anche come, perché purtroppo ci sono fotografie, ma peccato che queste fotografie non dicono, cioè, dunque, sì, niente, cioè si parla come parlano in televisione, nei programmi di questi programmi abominevoli. Non sono i programmi della televisione, è così. Toscani, ma lei le faccio una domanda su quello che sta dicendo. Lei ha iniziato negli anni 60, sì, con gli obiettivi, con l'obiettivo degli anni 60 e l'obiettivo di oggi, nelle facce, nei volti, sto parlando non dei volti importanti né quelli delle campagne pubblicitarie, ma nei ritratti che faceva casualmente o perché era colpito, lei vede più individualità allora e più conformismo oggi, ho capito bene? È sempre esistito un conformismo. Indubbiamente negli anni 60, io proprio partendo dalla generazione che ha spaccato questo conformismo, non c'erano i giovani negli anni 60, i giovani sono stati inventati, scusate, nella mia generazione. Guardate le fotografie, anche le fotografie di moda negli primi anni 60, le modelle sembravano delle cinquantenni di adesso. e quindi è cambiato veramente tutto. In un certo senso, anche forse grazie alla comunicazione, c'è forse più fantasia, ma comunque fantasia conformata, non veramente creativa, creata dall'individuo, ma così conformata a ciò che si vede e si pensa sia ciò che bisogna essere per avere successo. Abbiamo qui a Salemi in piazza, guardavo i ragazzini come si pettinano, una roba da me, ma perdono due ore davanti allo specchio a mettersi i capelli un po' a spazzola di fianco con la riga di fianco, ma è una roba di una creatività imbecilloide, interessantissimo. Questo non c'era negli anni 60. Ma perché il problema è che il meccanismo della televisione commerciale ha cambiato anche la capacità, la mimesi di massa in cui viviamo, non c'era la televisione commerciale. Abbiamo un'ascoltatrice, Franca da Roma, prego Franca. Sì, buongiorno. No, niente, volevo solo testimoniare la mia sorpresa andando in viaggio all'estero, del fatto che io con la mia famiglia ci riconoscessero in qualche modo come italiani prima che noi parlassimo, diciamo. Questa cosa, ecco, mi ha sorpreso, nel senso che mi ha fatto capire che in fondo siamo effettivamente una razza. E quindi mi chiedevo poi... Però le posso chiedere, Franca, perché secondo lei riconoscevano lei e la sua famiglia prima ancora che parlaste con accento italiano? Mi ha sorpreso, e allora provavo a vedere poi, dico, ma perché, da cosa ci riconoscono? Dagli aspetti somatici, da come siamo vestiti? Non sono riuscita a comprenderlo bene, un po' qualche volta ci hanno confuso con gli spagnoli, però era sorprendente quando tu vai a fare i biglietti al museo, ti parlano prima che tu parli, ti dicono in italiano, ti danno le informazioni in italiano. Secondo me un po' dagli aspetti somatici e un po' anche dal modo di fare, dall'abbigliamento e dai gesti forse, non so, è stata una sorpresa anche per me. Grazie Franca. Però lei dice, insomma, ci facciamo riconoscere, anche se questa espressione si usa di solito con un'altra accezione un po' più moralistica, ci facciamo riconoscere all'estero significa facciamo confusione, parliamo a voce troppo alta, buttiamo le cartacce per terra. E com'erlo? Lei poi ha vissuto molti anni più fuori d'Italia che in Italia, in realtà. E questo fatto del ci facciamo riconoscere, a cosa si deve? La faccia che abbiamo? Siamo davvero una razza? Io ci credo molto poco a questa roba del siamo una razza, non ci credo molto. Oppure in realtà siamo ancora troppo poco europei, malgrado che esperienza ha? Lei si vergogna di essere italiano? No. No, per nulla. E non credo, e sono d'accordo con lei, cioè, non siamo una razza, anzi siamo proprio un insieme di tante, non so, non userei la parola razza, non so neanche se le razze esistono, probabilmente sì, o forse i tipi, insomma, ci sono, però sono bianchi, neri. Sono un'altra cosa, noi siamo tanti tipi diversi perché siamo figli di conquiste, di popoli che si sono uniti di una penisola che è molto lunga, che quindi va dagli slavi di Trieste fino ai bizantini, insomma, no? Per cui non credo che si possa identificare la faccia italiana, non credo che esista. Esiste certamente una forma in senso generale, cioè una forma che l'italiano prende, no? E che è la forma probabilmente legata al modo di vestire, le scarpe, il modo di parlare, di muoversi, perché questo è vero, c'è la leziosità francese, c'è la compostezza inglese accompagnata anche da un bestiario generalmente un po' sbracato, c'è la gestualità larga degli americani e poi ci sono gli italiani che hanno un insieme di cose che sono caratteristiche di popolo meridionale però composto dentro una forma da salotto buono, no? Quindi sono tutte cose impalpabili che però ci fanno riconoscere quando andiamo in giro. Dopodiché ci sono delle cose che ci vengono assegnate diciamo così dall'immaginario e che riguardano il fatto che noi parliamo ad alta voce oppure che gesticoliamo e poi le cose che mangiamo, gli spaghetti, la maniera con cui amiamo le donne o le tocchiamo, il camminare insieme a una donna, l'italiano lo fa in una certa maniera, sempre secondo uno stereotipo che contiene, naturalmente, come tutti gli stereotipi, un pezzo di verità. Un pezzo di verità, ma non più di un pezzo, perché se pensiamo poi quanto siano diversi i costumi e le abitudini storico-popolari su questo argomento, penso per esempio come ci si rivolge alle ragazze dal Piemonte alla Sicilia, non è proprio la stessa cosa. Abbiamo un ascoltatore, Attilio da Bergamo. Prego, Attilio. Buongiorno, grazie per farmi intervenire. Ascolti, io la farei molto più semplice la cosa. Direi che in realtà gli italiani, come anche non solo gli italiani, tentano questo cambiamento fisico, ma solamente per nascondere quello che in realtà sono. Cioè praticamente a ciascuno di noi non piace essere quello che è e quindi si illude che cambiando i connotati fisicamente probabilmente si dimostri per quello che non è, ma in realtà non è così. Ecco, io farei in questo modo, molto più semplice, ecco. Allora, nascondere quello che si vuole essere, quindi cercando. Grazie Attilio, lei solleva un tema che in qualche maniera riporta a un intervento che Toscani ha fatto proprio pochi giorni fa. Ha partecipato a un festival dell'inquietudine in Liguria e dice Attilio da Bergamo: in realtà gli italiani hanno un'inquietudine perché non si trovano bene con le facce che hanno, quindi con i capelli, con il gel, come diceva Toscani prima, con l'abito, con lo stereotipo espressivo, eccetera, eccetera, non fanno nient'altro che esprimere questa inquietudine di fondo verso ciò che davvero avvertono di essere. C'è questo elemento, secondo lei, Toscani, nelle migliaia di facce che avete scattato nelle piazze? C'è una paura, ma questo non è. Allora, prima di tutto voglio. Dico razza umana proprio per dire che esiste nell'essere umano, esiste una sola razza, è quella umana, insomma, dove finisce il bianco, dove comincia il nero, il rosso, è incredibile veramente rendersi conto di questo. Apparteniamo tutti a una sola razza, quella umana, no? Non è che adesso arrivano i nordici e sono un'altra razza, assolutamente, siamo divisi per cultura. La nostra atteggiamento, il modo di essere, fare, aver paura e avere felicità deriva da una cultura e ognuno di noi assimila e rimanda ciò che la sua cultura gli fa fare. Allora, questa paura, l'ho già detto, deriva dal fatto che una ragazzina a 13 anni si rende conto che non ha le forme, le altezze, le misure delle donne che vede nei media e dice: ma io sono sfigata, non ce la potrò. Allora gli verrà un culone grosso, si metterà a fumare o diventerà anoressica. E ne abbiamo viste tantissime, soprattutto di giovani donne in crisi estetica, quindi in crisi esistenziale, tagliate fuori dal futuro, del successo che tutti i media, soprattutto quelli femminili fra l'altro, mettono sul mercato. È tutto un grande mercato, quindi è successo questo e sta succedendo questo. Siamo delle merci, ci consideriamo delle merci a cui si può cambiare la forma, il peso, le connotazioni, i colori e così l'appartenenza al mercato umano che la televisione, soprattutto la televisione, fa. Non a caso il capo di tutte le televisioni, sia quelle sue che quelle di Stato, essendo primo ministro, è diventato padrone, monarca dell'Italia, perché è il padrone delle televisioni. Quindi questo lavoro mi fa vedere sempre più profondamente questo strano disagio e nello stesso tempo questo signore è stato votato democraticamente da chi ha forse il maggior disagio. Ma è anche questo un collasso, per così dire, che da 15 anni sta andando in atto permanentemente, che però ci dice parecchio di ciò che agli italiani piace e che poi preferiscono e vogliono, non sono nelle urne, insomma. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di queste facce degli italiani realizzate con scatti sulle piazze dei comuni di tutta Italia, realizzate da questa squadra che messa in piedi, coordinata da Oliviero Toscani, che fa parte di questo progetto Nuovo Paesaggio Italiano presso la Bottega dell'Arte e della Comunicazione alla Sterpaia, e con Francesco Merlo e con Oliviero Toscani ci stiamo interrogando insieme a voi su quanto è cambiata la faccia degli italiani, che cosa ci dica di quello che pensano, di quello che sono, di come ambiscono a vedere organizzato intorno a sé questo paese e di come vorrebbero organizzarsi meglio interiormente. Alcuni ascoltatori, abbiamo Alberto da Roma, prego Alberto. Sì, buongiorno. No, volevo dire che forse la faccia segue quello che sta accadendo alla personalità, no? Ormai la personalità formata, che si forma attraverso sacrifici, storia, costa, è un costo mantenerla, è un costo essere coerenti. Praticamente oggi è come IKEA, è una ikeizzazione, si compongono i mobili assumendoli con un relativo costo di cambiamento, per cui un anno una persona si vota latinoamericano al ballo, non per divertirsi, ma diventa latinoamericana, e l'anno dopo si rivende in un altro modo. Quindi penso che tutto ciò che sia struttura, significazione, si stia perdendo proprio per questa superficialità di cui parlavano anche i suoi autorevoli ospiti, insomma. Quindi lei dice c'è un problema proprio nella semantica del linguaggio degli italiani, tendono a mettere insieme tessere di mosaici diversi, esatto, perché non sanno bene qual è l'espressione da dare a se stessi. Quella che gli sembra più comoda, quella che gli sembra più facile, anche la faccia è entrata in questo frullatore. Grazie Alberto. Isabella da Parma, prego. Buongiorno e grazie. Io volevo portare due considerazioni. Io ho avuto esperienze di studio e di lavoro all'estero e io personalmente ho messo molto spesso in crisi i miei interlocutori che non capivano bene da dove provenissi, per una serie di contraddizioni, immagino. In ogni caso, io credo che ci siano due livelli, perché io riconosco gli italiani che sono all'estero. Perché non le attribuivano, perché non le attribuivano i caratteri tipici dell'italiana, se capisco bene. No, non riuscivano a riconoscermi come mi hanno dato di tutto. Ultimamente mi hanno dato anche della russa, non so se è un'offesa o no, nel senso che l'erano abituati alle russe entre nous, ma lasciamo perdere, forse era un complimento da parte loro. In ogni caso ci sono due aspetti, uno esteriore, per come siamo curati. Effettivamente è molto difficile trovare delle persone curate nell'abbigliamento e nel tenerci al viso, ai capelli, a tutto come siamo noi. E dall'altro è l'espressione e quello che sono i nostri comportamenti, che sono un risultato della nostra educazione. Se io confronto i bambini italiani con i bambini francesi, dove sono stata a lungo per studio, c'è un abisso educativo, e anche nei genitori nei confronti dei bambini, che non fanno tante moine, ma li educano parlando loro normalmente, insegnando normalmente, eccetera eccetera. Quindi c'è questo aspetto, quindi l'interno e quindi l'espressione. Noi per esempio non abbiamo mai un'espressione difficilmente, non tutti ovviamente, di ironia, e invece è un tratto che io ho ritrovato molto spesso negli esteri, non in tutti, così come gli americani per me ridono troppo, e quindi ciascuna poi cultura poi riflette anche nel viso, perché poi l'espressione e la mimica diventano anche secondo me una conseguenza di quello che uno è dentro, ma questa è una mia sensazione. Il fatto che noi comunque ci occupiamo della nostra estetica, così non mi sembra che da noi sia pompata dalla TV, tutto quello che avete detto mi trovano d'accordo pienamente, però vedo che è una tendenza, dato che mi occupo di benessere e bellezza, che è una tendenza anche in tutto il mondo. Se io penso ai paesi asiatici, certamente, dove sono stata recentemente, le asiatiche si rifanno il seno perché non ce l'hanno, si rifanno il naso perché non ce l'hanno e si rifanno gli occhi perché sono chiusi. Io mi ricordo che le prime volte che andavo in Cina, che ancora avevo la tuta, mi guardavano e i bianchi, io ho un nasino piccolo, eppure dicevano gli occidentali naso lungo, e adesso loro se lo fanno come noi. Vedo che Isabella, la devo interrompere, però vedo che lei in realtà su questa omologazione di tratti in cui non ci si riconosce più e ci si ibrida, ne fa anche una questione giustamente non solo italiana. Sentiamo ancora Maria e poi torniamo con i nostri ospiti. Maria dalla provincia di Bari, prego Maria. Buongiorno, salve. Senta, io ecco, mi collego ovviamente alla telefonata. E queste omogeneità di volti, questa inespressività di volti, è come se gli italiani, perché penso sì, è mondiale, ma è particolarmente italiano, perché la TV italiana ha lanciato forse più degli altri questo modello qua, e quindi ci vediamo ogni giorno persone sempre meno espressive, alterando poi quelli che sono i caratteri genetici. Cioè, dico questo perché quando è nato il mio bambino, Io ho riconosciuto mio figlio dalle stesse mie labbra e quindi ogni volta in mezzo a tanti bambini riconoscevo il mio figlio perché aveva qualcosa di me. Cioè è come se non riconosciamo più i nostri antenati e nemmeno la nostra prole, cioè tagliamo i ponti con tutto quello che noi siamo stati. Grazie Maria, devo dire la verità che la televisione non riuscirà a cambiare il DNA di ciascuno di noi, può cambiare le abitudini, però il DNA, il patrimonio genetico, quello sa, con le onde televisive e con la radio non cambia. Salvatore Carruba ci ha raggiunto telefonicamente, lo ringrazio moltissimo Carruba per il tempo che ci dedica. A Carruba, che è ben conosciuto dal pubblico di Radio 24 per le sue attività, perché è editorialista del Sole 24 Ore, ma tra le tante particolarità di questo poliedrico assessore alla cultura di Milano, che io rimpiango in quella veste a dire la verità, ma comunque c'è il fatto che si occupa di Alinari all'interno del perimetro editoriale del gruppo 24 Ore, cioè della più grande impresa legata alla storia della rappresentazione del paesaggio dell'Italia, della sua evoluzione storica attraverso la fotografia, e poi si è evoluto, adesso bisogna digitalizzare tutto il patrimonio. Però da questo punto di vista, Carruba, questi ritratti di volti di italiani, che cosa le dicono a lei in realtà di tutti questi temi? Noi stiamo ripercorrendo mettendo insieme generi diversi, stiamo facendo antropologia, etnografia e rappresentazione del carattere morale, mettendo un po' tutto insieme, approfittando di questa cosa strepitosa che sta facendo Toscani. Lei che dice? Ci sentiamo privi di un'identità e tentiamo di scimmiottare attraverso le nostre facce, oppure no, con tutte le generalizzazioni del caso ovviamente? Innanzitutto buongiorno a tutti. Direi che proprio l'esperienza di Alinari dimostra che lì c'è un patrimonio archeologico antropologico che è straordinario, che fa vedere come ci siano dei tratti che dal 1852, quando l'Alinari cominciò a fare fotografia, dominano l'immaginario italiano e nazionale, e vediamo che in fondo in qualche misura una sorta di conformismo c'è sempre stato periodo per periodo, perché spesso cogliendo alcune immagini immediatamente si collega quell'immagine, quell'ambiente, quella faccia, quel salotto a un determinato periodo storico. C'è quasi un consolidamento, una saldatura tra quello che è l'ambiente circostante e i tratti nei quali si vogliono presentare i personaggi che vivono in quel periodo storico. Da questo punto di vista l'esperienza Alinari, che appunto affonda dal 1852, ci dà l'evoluzione complessiva della società italiana da allora a oggi, è preziosa perché ci permette di collegare immediatamente l'evoluzione della società col modo in cui l'individuo, come lei ha detto, si colloca all'interno di questa società, e vediamo che degli aspetti di conformismo, anche quando non c'è una televisione, degli aspetti di omologazione, degli aspetti di appartenenza a una determinata comunità che venivano sottolineati dal modo in cui ci si tirava i baffi piuttosto che dalle acconciature delle signore, ci sono sempre stati. Certo, allora le sollecitazioni erano minori, le divisioni di classe erano molto più forti di quanto non siano oggi, però una certa omologazione del gusto che ha corrisposto a quella che è l'andamento della società, a me pare ci sia sempre stato, e non soltanto in Italia. Da questo punto di vista, certo, l'esperienza di Alinari e l'archivio Alinari ci dà uno spaccato del nostro paese straordinario, e sarebbe curioso fare un parallelo tra l'iniziativa di Toscani e la storia che c'è del tipo italiano negli archivi Alinari. Però dimostra che insomma questo gusto di omologazione, o io preferisco dire questo gusto di riconoscersi in una appartenenza di gruppo, di cultura, di società, di classe sociale, c'è sempre stata, e forse fa parte del connaturato bisogno dell'uomo di sentirsi più sicuro, come veniva fuori anche da alcune telefonate di poco fa. Devo avvisare Toscani e Merlo che c'è una raffica di reazioni molto pesanti negli SMS che arrivano al numero 349-238-6666. Alcuni sono rivolti a me, mi becco la faccia da pirla, vabbè, ma questo va bene, io ho una faccia un po' particolare, ma parecchi invece sono un po' per voi, soprattutto per Oliviero Toscani. C'è una reazione di parte del pubblico, per esempio leggo uno a caso che viene da un numero, questi sono tutti identificati quindi non sono messaggi anonimi: ho votato Berlusconi e non mi faccio dare del coglione da Toscani, si vergogni, la televisione non è affatto lo strumento rapporto di potere che dite voi, e così via. Ma questo per dire, come sempre si tocca quando poi si sfiora l'argomento del carattere nazionale degli italiani, l'evoluzione dei loro costumi, dei loro bisogni, si tocca un punto delicato, perché in realtà ci scopriamo profondamente divisi da questa questione della politica, che passa anche per le facce e la maniera di parlare delle facce. Lei che dice, Merlo? Bisogna accettare l'idea che fino a che ci sarà il fattore B, in senso di Berlusconi, non quello del lato B, ma continueremo a essere in lotta tribale tra noi? Beh, credo che Berlusconi divida e contemporaneamente unisce, perché in qualche maniera è una faccia italiana. Non so se davvero si può fotografare l'ideal tipo dell'ordinario italiano, no? Probabilmente l'ideal tipo dell'ordinario italiano è, e mi pare che anche dalle telefonate, dalle reazioni venga fuori, è un italiano che non piace all'italiano, cioè l'italiano che non si piace e che crede che l'italianità sia un difetto che non vuole avere e che quindi vuole nascondere. Ora, detto questo, vorrei aggiungere una piccola cosa sulla televisione, che la televisione ha ragione il telespettatore che però sbagliando insulta Toscani, perché la televisione è anche, certamente Toscani è d'accordo, è un grandissimo strumento, non è un'invenzione italiana, è una meraviglia che, come tutte le meraviglie, deve essere usata bene. Quindi l'anomalia italiana non è la televisione, ma semmai è il rapporto fra la televisione e la politica, che è pre-berlusconiano, cioè una malattia pre-berlusconiana che probabilmente ci portiamo dietro e ci porteremo dietro ancora per un po'. Però io sono d'accordo, la televisione servile non asserve gli italiani. Gli italiani sanno distinguere fra sanno riconoscere, magari si indignano, si irritano, eccetera, però non è perché possiede la televisione che Berlusconi è vincitore delle elezioni, ma perché è stato più bravo. E quindi perché gli altri sono stati meno bravi, quindi bisogna riconoscere ai telespettatori che si arrabbiano questa verità, che riconosciamo anche noi, che anche io, che certamente non sono berlusconiano e che vorrei che Berlusconi fosse battuto democraticamente con il voto. Certamente non è un problema di televisioni, perché non è un problema, è precedente quando vengono nominati i direttori dei telegiornali da un governo di sinistra, sono dei sottosegretari all'informazione, così come lo sono i sottosegretari all'informazione che vengono scelti da Berlusconi. Certo, c'è l'anomalia pesantissima della proprietà di Mediaset, che si somma al controllo politico diretto e forte che Berlusconi, che il governo fa della televisione pubblica. Questa è un'anomalia pesante, e il conflitto di interessi, ma anche il conflitto di interessi è una vicenda precedente a Berlusconi, perché era in conflitto di interessi il conte di Cavour, e in conflitto di interessi la sinistra con Renato Soru. Diciamo che è un male italiano anche quello, in realtà sta molto scritto in profondità nel carattere degli affari pubblici italiani. Penso alle orazioni di Cicerone, in cui anche allora era questo uno degli argomenti. Eccoci tornati in studio a parlare in quest'ultima parte sempre della nostra faccia, la vostra faccia, e che cosa ci dicono queste migliaia di facce fotografate dalla squadra capitanata da Oliviero Toscani sulle piazze di tutta Italia. Abbiamo Omar da Milano, sentiamo cosa ci dice Omar. Sì, pronto, buongiorno. Io magari sono un osservatore un po' fuori, che sono straniero, che è da anni che vivo in Italia. Magari questo è un complimento per l'argomento, che sembra una cosa magari semplice, ma dentro possiamo mettere chi sia l'etica, che l'ori, che manca magari, non so, il carattere, perché uno come si presenta alla gente è per questo. Dico, io ho osservato questo cambiamento, non so, per qualcuno è una cosa positiva, per me un po' negativa, perché qui magari si nega l'identità. Io dico, da straniero, prima per noi, io sono algerino, in Algeria quando vedevamo uno ben vestito, che sapeva abbinare i colori, dice, sei come un italiano, che era un complimento. Ma adesso che io che vivo qui, all'inizio che magari vedevo questa cosa qui, che ho iniziato l'immigrazione al sud, che vedevo quelle sfilate delle piazze magari del sabato, che sia il muratore, che quello che lavora in barca, di sabato tutti belli stirati, magari bel vestiti, anche a abbinare i colori, che adesso non vedo più, vedo magari camicia gialla, camicia rossa con scarpe gialle, che magari quella roba che ho visto in Inghilterra 20 anni fa, questi pantaloni un po' sotto che si vedono i boxer, non vedo più nel modo, nel gusto di vestire, non vedo più quella italianità. Io la ringrazio molto, Omar, perché è una schizofrenia, che magari perché c'è carattere, c'è l'identità di un popolo, ecco, però la stiamo smarrendo. La ringrazio molto, Omar. Olivero Toscani, Omar mi sa che ha forse più ragione lui vedendoci da fuori di quanto non sembri, o no? No, indubbio, per chiaro, razza umana ci sono, abbiamo fotografato anche tutti i nuovi italiani, che sono tutti gli immigrati, che ormai sono più italiani di noi in un certo senso, anzi ci aiutano a migliorarci, a vederci, a fare dei confronti, insomma. Come dico, la faccia è formata dalla cultura nella quale uno vive e assorbe, e non si può dire, non si può generalizzare. È stato chiesto l'altro giorno a Merlo, ma qual è l'anomalia italiana? Forse Merlo ha dato tutta una risposta molto. Dovete leggere il libro di Merlo, che è molto. Io faccio le fotografie, ma lui ha fatto un ritratto incredibile. Sì, sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo. Bellissimo, perché ci fa capire, cioè anche a chi è critico fa capire delle cose, insomma, ancora più profonde. E secondo me l'anomalia italiana è la mamma. Quella signora Franca che ha telefonato prima, sicuramente lei con i suoi figli è andata a lei a comprare i biglietti col marito dietro, e questa è l'anomalia italiana. Devo dire che la mamma si sente nelle fotografie degli italiani. Come mi piace questo che dice, lo vogliamo dire a queste mamme che eccedono nella copertura di queste attenzioni morbose? Non siamo sicuramente un popolo orfano, ecco. Perché arrivavano le mamme, fotografi il mio bimbo, guarda che bello del mondo, cioè degli scorfanelli di bambini, no? Però di una bellezza incredibile. Chiaramente un bambino di 5-6 anni che si sente dire sei il bambino più bello, più bravo, più buono del mondo, è chiaro che cresce in un certo modo, e credo che questo ogni italiano si sente un pochettino così. Poi quando viene confrontato veramente con la vita vera dice, ma forse non sono veramente come dice mia mamma. Ecco, forse questa è l'italiano, esatto. E questo uomo, questa donna, ma la donna molto meno, è questo uomo che a un certo momento deve confrontarsi e dire, ma non sono veramente come dice mia mamma. Quindi le mamme hanno fatto una grande azione di diseducazione. Di diseducazione. Dell'eliminazione della televisione e delle mamme. Un programma un po' radicale, vasto programma, come direbbe De Gaulle. Senta, vabbè. Io devo fare a lei, a Merlo, un'ultima domanda che mi è imposta da non so quanti messaggi che chiedono di chiedere a Toscani come si fa a riconoscere, dopo che uno va gira per le piazze di italiani, le vere facce da le facce da, ecco, che un po' ci sono anche nel carattere italiano. Si riconoscono davvero? Io non vado in giro a cercare le facce degli italiani, vado in giro a cercare le facce di chi vive in Italia, di chi è italiano. E devo dire che sono infinite, non si può generalizzare, è impossibile. Sì, ma insomma il furbastro, il carattere, la parte dell'italiano furbastro che tende a rifilare fregature, si vede nelle facce. Sì, è chiaro, c'è queste facce, c'è questo atteggiamento, ci sono queste catenine ancora, quei crocifissi, ci sono tutte queste, questo atteggiamento così dell'uomo Futtenberg, è molto patetico anche, e poi esiste questo scivolamento verso un atteggiamento di omosessualità epidermica, latente, omoerotico, latente, incredibile, questo dandismo tante volte latente e anche patetico, povero, esteticamente, insomma. E chissà che non ci ricada anch'io in questo estetismo un po' patetico. Tu sei un pochettino estremo. Ma non parliamo di me, per carità. Sei una persona interessantissima, infatti prima o poi ti fotografo, ci sei anche tu fra gli italiani. Ma è purtroppo per loro, per gli italiani, non per me, che ne sono fiero. Io sono fiero di essere italiano. Francesco Merlo, ma nella faccia, io che la conosco da un po' di decenni, e lei è dal mio punto di vista un po' il meglio al quale molti vorrebbero ambire a essere, perché è un italiano molto del sud e contemporaneamente molto composto, come è composta la grande civiltà del sud, ed è contemporaneamente critico dei carattere nazionali degli italiani e contemporaneamente ne esprime una parte secondo me molto alta, a parte che io la invidio la penna, e questa è una dichiarazione vera. Ma detto questo, le facce da, cioè, insomma, le facce un po' da la caratteristica del furbastro italiano, quello che all'estero forse non piace perché tende a rifilare fregature, a saltare le file, a dire io sono più furbo di tutti, questo carattere che secondo me c'è ancora molto e c'è ancora purtroppo per noi molto forte. C'ho molti messaggi di italiani che lavorano all'estero che dicono a me tocca pagare sempre il prezzo del fatto che mi dicono italiano con una punta di disprezzo perché pensano che ho saltato la fila. Ecco, questa la faccia del furbo, come si fa a isolare un po' di più quando si tirano su dei figli? Ma la furbizia italiana è anche una risorsa, devo dire la verità, perché un paese che da 5 secoli è fuori dalla storia attraverso la furbizia ha tenuto delle porte aperte, per cui noi siamo furbi perché siamo, non so, filo israeliani e filo palestinesi, perché siamo amici dei nostri nemici, cioè alleati dei nostri nemici e nemici dei nostri amici, perché siamo di forze di governo, perché abbiamo questa è una versione elegante della vecchia furbizia italiana. Nella faccia vorrei ricordare la famosa inchiesta di Cartier-Bresson sulla Cina, che uscì credo alla fine degli anni 50 con una bellissima prefazione di Jean-Paul Sartre, che iniziava più o meno, cito a memoria, dicendo è bellissima la Cina di Cartier-Bresson perché non somiglia alla Cina. Una volta sono andato con un fotografo francese in Sicilia e lui voleva fotografare i siciliani, li cercava in Sicilia e non li trovava, e allora ha dovuto mettergli il cappello, un maranzano, gli ha fatto fare un'espressione siciliana e ha fotografato il siciliano. Voglio dire, quindi può darsi che da questa bellissima iniziativa di Oliviero Toscani venga fuori proprio un'Italia che non somiglia agli italiani. Esatto, che ci sorprende. Io ringrazio moltissimo Francesco Merlo, vi ricordo il suo FAQ Italia, che non è FAQ del verbo to fuck, ma è Frequently Asked Question, di Bompiani, il suo libro, leggetelo. Ringrazio Oliviero Toscani con la sua strepitosa iniziativa di Razza Umana e con la Bottega della Sterpaia. Ci sono mostre aperte in Italia, una nelle Marche, una a Petra, per chi volesse visitarle con parte di questo materiale. Ringrazio Salvatore Carruba, che dovrò riparare nei suoi confronti perché l'ho tenuto al telefono troppo e chiedendogli troppo poco. A voi ricordo che abbiamo una domanda di un ascoltatore di ieri a cui daremo risposta non appena l'autorità dell'energia ieri ci darà risposta, quello che ieri da Chiamando D'Aleco lamentava 16 mesi ancora in cui non è riuscito a cambiare il contratto che lo legava prima a Leni. Ringrazio Giorgio Mattei in regia, Gloria Guerrera e Laura Faggini in redazione, e vi do appuntamento a domani. Ci occuperemo di PD. La linea al Giornale Radio.